Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, c'è Antonello Migliaccio in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vicino a me invece per questa puntata di Palla Spicchi un giocatore italiano forte e vincente, praticamente una specie protetta. Non è un panda, ma è Marco Mordente, guardia dell'Armani Gis Milano e della Nazionale. Ciao Marco. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, ciao Marco, buongiorno a tutti. Direttamente dai microfoni di Sport Italia e dei microfoni che sono anche quelli quest'anno dell'Eurolega, coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao Carlo, ciao Flavio, Marco, un abbraccio, ok? Un abbraccio anche a lei, buongiorno coach. Coach, ieri sera ovviamente ti ho ascoltato con Guido Bagatta raccontando di una Armani bella, orgogliosa, che ha perso con i campioni d'Europa. Perché Spanulis e Diamantidis sono due giocatori mostruosi, eccetera eccetera. Hai detto più volte, hai sottolineato più volte come Marco Mordente è un giocatore istintivo. Mi ricordo a un certo punto del primo tempo ha rinunciato a un tiro da tre punti per cercarsene uno migliore, per cercare uno migliore per la squadra. No, Marco deve prendere quel tiro, lui è un istintivo, eh? L'ho detto, Mordente è un attaccante, non è uno che deve ragionare in campo. Mordente è come premier e deve prendere la palla, se ce l'ha la palla a mano deve attaccare, e poi dopo ha attaccato benissimo, ha fatto due o tre cose, infatti la migliore formazione in campo ieri sera per me, per Armani Jeans, era tre italiani, Mordente, Buleri e Mancinelli, che sono stati veramente gli architetti della grande rimonta, anzi sono andati più sette, quindi Marco ha giocato bene, loro bene, solamente un minuto tragico a 4 minuti dalla fine, in cui una palla persa su una rimessa, 4 tiri liberi sbagliati e una palla persa a metà campo, ha un po' disfatto tutto quello che è stato fatto negli altri 39 minuti. E purtroppo Milano è una squadra che deve giocare 40 su 40, non bastano 39, ma in qualsiasi squadra che gioca in Eurolega è così. Quindi questa è la mia, l'ho detto ieri sera e ripeto oggi. Sì, obiettivo finale 40 su 40, Milano in costruzione, Milano al lavoro. Marco, sconfitta utile, costruttiva, di crescita, o come ad esempio scrive Luca Chiabotti oggi, grande occasione persa contro i campioni d'Europa? Io cerco sempre di vedere gli aspetti positivi e negativi. Probabilmente oggi vedo più l'occasione sprecata, perché Panathinaikos all'inizio della stagione fa sempre fatica, viene qui con senza Jasikevičius, senza Batiz, senza Tsatsaris. Tant'è vero che quando è uscito Pekovic con un Fotsis comunque mediocre, avevano grande difficoltà dentro, e quindi era giusto prendere, cogliere l'occasione e provarci fino alla fine, mentre invece abbiamo proprio sprecato, a prescindere che ci fosse davanti Diamantidis o che ha fatto una serie di palle recuperate, dovevamo giocarcela un pochettino di più fino alla fine. L'aspetto positivo è che comunque la nostra fisicità in Eurolega può diventare un punto di forza e possiamo giocarci da quel punto di vista lì, senza subire troppo come capita invece in campionato, che tanti giocatori in pochi minuti sono penalizzati dai falli. Sì. Ecco, questo aspetto, scusa, volevo chiedere a Marco, proprio quello della fisicità è un po' una differenza rispetto anche alla squadra dell'anno scorso, una differenza che quantomeno in Eurolega vi può dare un plus. Certo, l'anno scorso mettevamo tanta intensità, anche se non avevamo tanta fisicità. Quest'anno, se penso a Maciulis, che è veramente un animale fisicamente, riesce a giocare con tutt'altro modo in Eurolega, a parte che conosce comunque meglio il campionato. Anche Petravicius non è fortissimo, però riesce a mettere intensità. Mancio, che comunque conosce l'Eurolega e riesce a giocare anche abbastanza bene, un po' meno di Catelinas, però abbastanza bene. Secondo me deve essere lo stesso, io in prima persona, se penso al campionato faccio più fatica rispetto all'Eurolega, dove comunque l'intensità e il metro arbitrale sì, mi permette di giocare con molta più aggressività. Coach, guardiamo anche alle altre due italiane. Roma ha fatto un'impresa vera contro Vittoria, che è un'ottima squadra, incommentabile onestamente Siena, più 45 in trasferta sul campo del Cibona, record di una vittoria sulla strada per l'Eurolega. E tra l'altro io sono pronto a scommettere che David Hawkins farà la sua stagione migliore quest'anno a Siena. Guarda, io ero molto, ammetto il mio errore, ero un po' in dubbio su questo, perché mi sono detto ma Hawkins 20 punti, 20 tiri a partita a Milano, accetta di fare 8 tiri a partita a Siena, invece lo fa, ha fatto una grande difesa, la sua difesa individuale su Gordon all'inizio della partita ha dato veramente tono alla partita e ha dettato lui la personalità della difesa e della partita. E poi la cosa che mi ha fatto impressione, nonché fra virgolette paura, che Siena si è steso anche in contropiede, quindi una presa devastante, sembravano veramente capaci loro, non Maccabi Tel Aviv, di andare in America a sfidare le squadre americane, i Knickerbockers e i Los Angeles Clippers. Roma ovviamente contro Ektau, un altro nome adesso, Kaya Laboral, hai detto, però hanno perso diversi giocatori rispetto all'anno scorso, quindi un po' indebolito. Tornando a Milano, ripeto qui quello che ho detto ieri sera nella post partita con Guido Bagata, non voglio buttare fuori via il bambino con l'acqua sporca. Certo, Marco ha ragione, hanno perso un'occasione, su questo non ci piove, ma se l'Armani Jeans riesce a giocare tutte le partite con l'intensità che ho visto, e fra l'altro ho visto Piero Buchi che è sempre molto composto a bordo campo, meno composto del solito, meno composto in qualche time out, pugno in aria, e gli arbitri hanno detto ogni volta che scendevano in quella parte del campo, Buchi, mettiti fuori la riga bianca. Buchi era in campo più che gli altri giocatori, sì. Quindi bene, ha fatto bene, peccato anche un tecnico. Ma se Milano riesce a tenere quel livello di intensità e pulire le piccole distrazioni di errore sulle situazioni più banali, i tiri liberi, le rimesse contro pressing, trattare la doppia metà campo, loro possono ovviamente arrivare al top 16 e fare un ottimo campionato. Ho detto sei, è una grande parola, però mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra ieri sera, sono il primo a dirlo. Su questo sono d'accordo. A proposito, contatti per gli ascoltatori 800 24 00 24, numero verde per le vostre telefonate, messaggi 349 238 6666. Cos, prima di salutarti, l'altro argomento, poi ne parliamo con calma, però volevo la tua opinione e anche volevo sapere, approfondire anche una notizia. Come sappiamo, Recalcati non è più, anche se non ufficialmente, allenatore della nazionale italiana. Poi Flavio Suardi ci racconta lo stato dell'arte su questa vicenda, però Recalcati non è più allenatore CT della nazionale italiana. Caduto Coach Peterson, allora volevo se vuoi. Sì, ma volevo approfondire anche un discorso, sì. Perché l'altro giorno ho letto, l'altro ieri, sul Corriere della Sera, di una telefonata proprio del coach al suo amico Donny Walsh, cioè il boss di New York, per liberare D'Antoni per la panchina azzurra. Cosa che poteva anche riuscire, poi D'Antoni all'ultimo momento ha declinato, ricordiamo che ha un contratto fino al 2010 come assistente della nazionale statunitense. Per quanto riguarda invece Recalcati, diciamo che anche noi un po' ci affidiamo a qualche rumor, se a qualche chiaramente approfondimento che abbiamo fatto. L'idea è quella che Recalcati abbia ricevuto comunque una comunicazione dalla FIP, perché per non essere più l'allenatore della nazionale, manca ancora quella che è diciamo la carta, cioè sì. Quello che è la notizia ufficiale. Potrebbe esserci un incontro già oggi nel pomeriggio e forse già da oggi potrebbe esserci l'ufficialità. Vero è, Carlo, come dicevi tu prima, che la nazionale dovrà cominciare a cercare un altro allenatore, perché sì. Almeno di cose clamorose nell'incontro di oggi pomeriggio, clamorose, gli è stato detto che non è che più allenatore, non sarà più della nazionale. Oggi gli viene, c'è l'incontro con Meneghin e verrà ufficializzato tutto quanto. Coach, ci sei? Eccomi qua, è caduta la linea. Vabbè, fa niente, però voglio sapere se hai telefonato a Donny Walsh o no, per liberare D'Antoni per la panchina azzurra. Tutti parlano di questo, ovviamente, questa cosa ufficiale del Recalcati non avevo sentito, avevo letto tanto sui giornali, magari una logica fino a una sequenza di cose, però non ho visto niente ufficiale ancora, non posso dire e non sì. Vorrei commentare anzitempo su questo, però avete ragione a dire che è su tutti i giornali e tutti i talk show e tutti i siti internet eccetera, questo è pacifico. D'Antoni probabilmente 9 su 10 non può prendere la nazionale italiana, perché uno ha nell'estate del 2010 è un lavoro importantissimo per i Knicks per quanto riguarda il mercato, gli agenti liberi. Due, ha un contratto con la USA Basketball, con la nazionale, con Krzyzewski, fino al 2010, quindi ci sono diversi impedimenti. Chiaro, se posso dire questo, se Charlie Recalcati veramente lascia la nazionale per qualsiasi motivo e se potesse venire Mike D'Antoni, io sarei la persona più felice al mondo, posso dire quello. Grazie coach. Sentiamo ciao ragazzi, Marco, ciao, saluti a tutti. Arrivederci coach. Palla spicchi. Dunque, torniamo in studio, stavamo parlando di nazionale e di futuro. La situazione è quella che Flavio Suardi vi ha descritto, e cioè Recalcati, per l'appunto, nonostante un contratto in vigore da soli 22 giorni, contratto appena rinnovato, non è più CT della nazionale, gli è stato comunicato verbalmente oggi questo incontro e il tutto già da oggi io credo diventerà ufficiale. Guarda, da un certo punto di vista me lo auguro, così almeno non chiaramente per Charlie Recalcati, ci mancherebbe, però almeno si fa chiarezza, sì, e si ricomincia è davvero. È una situazione da risolvere, anche perché insomma, con tutto l'affetto possibile nei confronti di Recalcati, testimoniato più volte anche a lui personalmente, che è stato nostro ospite in diverse occasioni, insomma mi sembra una storia finita, no? Quando una storia d'amore finisce, inutile insistere, si diceva anche in amici miei, quando è finita è finita. Marco, io non credo che sia solo una questione di risultati la fine di questa storia, io credo che, è una mia opinione personale, si debba ripartire da zero, e se devi ripartire da zero è giusto farlo in maniera totalmente diversa, anche perché sempre la mia impressione personale dall'esterno è che il rapporto di Recalcati con questo, con il gruppo di giocatori, soprattutto dei più giovani, che non è riuscito a centrare gli ultimi traguardi, non sia ricucibile, non sia ricostruibile, è forse un feeling mai nato. Insomma, credo che, essendo questo gruppo ed essendo questi giocatori, si debba partire con un commissario tecnico diverso. Credo che sia arrivato il momento di cambiare, ma non perché il problema sia il coach, ma perché comunque non si sono ottenuti dei risultati e quindi è giusto riprovare a buttare fuori delle nuove energie, nuovi progetti. Quindi la scelta di, mi dispiace per Charlie, ma la scelta che sta facendo la federazione credo sia una scelta giusta, perché comunque l'anno scorso e quest'anno in due occasioni non abbiamo ottenuto il risultato più importante, che era arrivare all'europeo. E se penso anche a quello del 2007 in Spagna, dove comunque eravamo partiti con delle grandissime sì. aspettative, e anche lì abbiamo deluso. Tutti, prima di tutto noi eravamo molto delusi e soprattutto poi tutto il movimento, quindi ripeto che sia giusto dare una svolta e ripartire con facce nuove. Sì, anche perché per l'appunto Europeo 2007 poi è stato un continuo precipitare di risultati, da un'estate difficile al barrage che non ci ha portato agli europei, insomma quando tocchi il fondo del pozzo è giusto risalire con è fisiologico, direi. Esatto, senza togliere a quello che ha fatto Charlie, perché i risultati più belli della storia della pallacanestro italiana l'ha ottenuti lui nel 2003 e nel 2004. Poi purtroppo 2005, 2006, 2007, 2008 2009 abbiamo sbagliato, quindi è giusto cambiare e andare avanti. Cominciamo a parlare con gli ascoltatori, 800240024, poi leggo anche gli sms, molti erano relativi a questo discorso del nuovo CT della Nazionale e credo che quello che c'era da dire si è detto anche sul versante della cronaca pura, la situazione sta in questi termini. Roberto da Rimini, poi Gian Antonio dalla provincia di Como. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno, innanzitutto i complimenti al suo ospite e a Morbente. Poi una domanda, secondo voi Sina si è rinforzata abbastanza per poter puntare all'Eurolega quest'anno o rimarrà sempre la solita schiaccia sassi in campionato e in Eurolega, a parte la partita scorsa che ha demolito l'avversario, ma quando si arriva alle top 4 diciamo la cosa comincia a essere un po' diversa, secondo voi può essere l'anno giusto? Domandone questo, domandone. Io mi aspettavo l'arrivo di onestamente poi sentiamo Marco, mi aspettavo l'arrivo di un centro dominante, anche perché mi sembra che anche gli europei abbiano detto come sia forse in corso un'inversione di tendenza che ci porta al ritorno del centro. Voi avete preso Petravicius proprio con obiettivo Europa, con l'obiettivo di essere più fisici anche in Europa. Ieri sera abbiamo visto il più forte centro europeo contro di voi, Pekovic. Agli europei è fiorito Mozgov, ad esempio, il giocatore del Khimki, che è molto bravo. La Grecia, la Turchia, sappiamo i giocatori di cui dispongono. Insomma, il centrone a Siena non è arrivato. Può essere un problema, Marco, secondo te? Non è arrivato, però forse potrà arrivare, perché comunque sentendo all'inizio, della stagione a settembre c'erano delle voci su un possibile arrivo di un centrone. Però bisogna dire che Siena secondo me si è rinforzata. Ha preso un giocatore, il miglior americano dell'anno scorso, che è David Hawkins, purtroppo ce l'ha rubato. Sì. Però David sicuramente gli fa fare un salto di qualità, sia offensivamente che difensivamente. Poi ha preso un giocatore di grandissimo livello come Zizis, che ha tantissima esperienza a livello europeo, non solo con il club ma anche con la nazionale. Certo. Quindi credo che Siena ha veramente le possibilità per arrivare fino in fondo. Poi dopo bisogna anche vedere come sono gli incroci. L'anno scorso sembrava che dovessero andare direttamente a vincerla, a prenderla, e invece hanno beccato il Panathinaikos ai playoff. Perché? Perché per una serie di partite perse. Perché basta sbagliare una partita come ha fatto l'anno scorso Siena. A Mosca, dopo aver dominato la partita... No, avevamo perso prima il top 16, sì, una delle prime... Con il Cibona Zagabria, se esatto, non sbaglio. Sì, quella gli è costata l'incrocio col Panathinaikos. Sì, ma anche la differenza punti con il Zesca. Poi successivamente, tra l'altro. Sì. Su Hawkins, prima parlando di cosa dicevo, io sono pronto a scommettere che quest'anno fa la miglior stagione della sua carriera, ma per questo motivo, secondo me Hawkins non ha le caratteristiche del leader a tutto tondo, cioè non è un leader vero e proprio. Siena quest'anno non chiede ad Hawkins di essere un leader perché ce ne sono degli altri, quindi Hawkins può esplodere come mai ha fatto forse nella sua carriera. Ti do ragione, se penso a Siena sicuramente il leader è McIntyre. Perché sì, però se penso al leader penso a quello che trascina la squadra, che fa il canestro importante, comunque l'azione decisiva, e che ha la palla in mano nei momenti caldi è McIntyre. L'ha sempre fatto, l'ha dimostrato che può farlo. David, a differenza dell'anno scorso, avrà molte più energie da spendere in difesa, quindi può essere dove lui è veramente... le sue armi sono sicuramente in attacco ma soprattutto in difesa, quindi potrà tornare ad essere quel giocatore che difensivamente può fare la differenza, sì, come ha fatto spesso a Roma, come ha detto poi anche all'inizio della trasmissione coach Peterson. Abbiamo il tempo, prima di fermarci per la borsa, di sentire Gian Antonio dalla provincia di Como. Buongiorno. Buongiorno da Cantù, per la precisione. Non avevo dubbi, no. Orgogliosissimo della cosa. Ma vi saluti a tutti. Io chiamavo per chiedere la vostra opinione sulla vicenda numero obbligatorio di italiani da mettere in squadra. Sì. Perché ogni tanto questo tema ricorre e devo dire che io non sono affatto d'accordo, perché a Cantù l'attaccamento alla squadra non è mai stato così alto come in questi ultimi anni, in cui gli americani sono venuti, americani nel senso stranieri, sono venuti e sono sempre stati veramente benissimo accolti, e il pubblico è molto, sì, molto attaccato alla squadra. E che giocatori, perché vabbè, voi dite adesso di Siena è arrivato Hawkins, ma hanno perso Kaukenas, che secondo me vale molto di più di Hawkins. Questa era la riflessione. No, il mio suggerimento è questo: per far tornare, tornando anche al discorso della nazionale, secondo me per far tornare la nazionale forte, per avere giocatori italiani forti, occorre incentivare il movimento giovanile. Secondo me l'Italia a basket diventerà sempre più forte se ci saranno sempre più genitori che al sabato portano i ragazzini al campetto, sì, e ci giocheranno insieme. Questa è la base di partenza. Ad esempio Cantù una volta aveva un settore giovanile che produceva Bosa, Antonello Riva, Cattini, Innocentin, adesso chi produce? Cosa ha prodotto? Squarcina, forse? No, negli ultimi anni. Non credo neanche. Il problema di Giulio Maria. Sì, che ormai... Che però arrivava, è arrivato a Cantù dopo che, mi pare che lui fosse di Roma. Di Roma, sì, sì. Quindi, di Roma. Il discorso è un po'... Poi, insomma... Poi vale, io sinceramente continuo a pensare, come dici spesso tu, Carlo, che una squadra che abbia una forte identità italiana abbia... più probabilità di farsi voler bene al suo pubblico. Questo è il discorso, è sempre quello. È chiaro che è più facile affezionarsi ad una squadra in cui il nocciolo italiano, come è sempre stato una storia, quel nocciolo italiano rimane magari anche più di una stagione, volendo, no? Poi è chiaro che vale lo stesso discorso per cui i giocatori italiani, di cui abbiamo uno dei massimi rappresentanti qui in studio, i giocatori italiani devono essere competitivi a livello di basket, a livello agonistico e a livello di mercato. Palla spicchi. Torniamo con un sacco di ascoltatori, quindi qui Marco Mordente naturalmente che risponderà alle domande, però prima una gliela faccio io, visto che stavamo parlando di Azzurro, rinuncia alla nazionale, insomma questi giorni si parla di Totti, di Nesta, di tutta la gente, di Tai Aghero che ieri ha dato l'addio alla nazionale di pallavolo. Ecco, io a un giocatore nazionale volevo chiedere, ma questo lui è Marco Mordente, risponde per sé, cos'è per te la maglia azzurra, Marco? Rappresenta il massimo. Perché non, la sensazione che ho che quando metto la maglia e parte l'inno della nazionale non è solo di rappresentare il movimento cestistico, ma rappresentare tutta una nazione. E sono sensazioni che sento e che vivo solo in quegli istanti lì quando ho la maglia azzurra. E in nessun'altra occasione, con nessun'altra maglia, riuscirò mai a provare una cosa del genere. E siccome le prime volte che la mettevo dicevo vabbè dai, la prima volta ci sta, la seconda volta ci sta, invece no, sono passate 70, 80, 90 partite e a me torna sempre il brividino, l'emozione di dire però rappresento anche la persona anziana che a casa non sa niente di basket. E questo vorrò, quindi non smetterò mai non dirò mai la nazionale perché voglio continuare a sentire questa emozione unica. Dario Milano, buongiorno. No, io ieri ero al forum e ho visto la partita di Milano contro il Panathinaikos. Volevo fare due considerazioni brevi. Una è che purtroppo il forum era un'altra volta miseramente vuoto. Sì. Per una partita così, insomma, coi campioni d'Europa, l'esordio in Eurolega, è veramente una cosa che fa un po' di tristezza. Verissimo, bravo. Un'altra cosa che però è collegata, diciamo. Milano ha un budget, diciamo, che non è paragonabile a quello che può avere il Panathinaikos, l'Olympiakos, il CSKA, così. Quindi a questo punto, per riempire il forum, non sarebbe un'idea, magari anche proprio dal punto di vista tecnico, cercare di sviluppare un tipo di gioco diverso? Abbiamo visto che abbiamo una squadra che fisicamente è di buon livello, abbiamo dei grandi atleti in campo aperto, sì. Mentre forse nel gioco a difesa schierata facciamo un po' fatica. Cioè lei dice una squadra più divertente, una squadra che gioca in maniera più brillante. Esatto, perché il coach difensivamente è bravissimo, perché anche quest'anno abbiamo visto che in difesa la squadra combatte, ha dei buoni meccanismi, pur essendo completamente nuova non è male, diciamo, dal punto di vista difensivo, però in attacco facciamo veramente fatica. Quando il Panathinaikos negli ultimi 5 minuti ha schierato contemporaneamente Spanulis e Demantidis, facciamo fatica a superare la metà campo. Quindi dico, se noi proviamo con una squadra del genere, volevo sapere proprio da Marco se loro parlano col coach o hanno mai pensato di provare a fare un tipo di gioco diverso, magari più veloce, cercando soluzioni un po' più rapide in attacco, per provare a dare sfogo, secondo me, all'atletismo dei nostri giocatori, che sono veramente, da un punto di vista atletico, molto bravi, mentre forse nel gioco a difesa schierata fanno un tantino fatica. Domanda interessante, Dario. Domanda interessante che giriamo a Marco Mordente. Fin dai primi giorni Piero ha puntato tanto sulla transizione, sul fatto di partire, correre, cercare di andare a rubare qualche canestro facile. Ci stiamo lavorando tanto e secondo me alla lunga verrà fuori qualcosa di buono. Ne sono convinto perché comunque anche in precampionato siamo riusciti a correre, a giocare in quella maniera e a divertirci. Ci vorrà un pochettino di tempo perché siamo nuovi. Sì, siete tanti nuovi anche, quindi un minimo di pazienza ci vuole, anche se insomma, tempo stringe, però non siamo tempo, perché Siena dalla parte Siena del tifoso stringe il tempo, no, vedi? Ma insomma Siena è già scappata e scapperà presto, insomma la storia dell'anno scorso dice come Milano non possa più permettersi un inizio come quello dell'anno scorso, che l'ha tenuta fuori dal ballo della Coppa Italia, che l'ha costretta a una rincorsa molto affannosa per passare il turno di Eurolega e poi a una rincorsa altrettanto affannosa per guadagnarsi una griglia di playoff decente. Poi sappiamo com'è andata anche nei playoff, però insomma io non credo che Milano possa permettersi un avvio di stagione come quello passato. Marco? È un altro obiettivo, sappiamo che chi c'è stato l'anno scorso, quindi mi riferisco a, parlando di Bullo, di Mason, di Joy, di Mike, sappiamo benissimo che dobbiamo evitare quella partenza che ci ha veramente tanto penalizzato. Poi siamo riusciti a recuperare un po' tra marzo e aprile facendo una striscia di 7 vittorie consecutive, e poi sappiamo bene che la griglia dei playoff ci ha dato una grande mano, perché comunque siamo andati a fare poi degli incroci abbastanza di fortuna, però dobbiamo evitare, infatti è stato già un peccato perdere a Varese, anche se era un derby, perdere in quella maniera. Dobbiamo veramente concentrarci subito sulla prossima di campionato, come ha detto anche ieri sera Piero, finita la partita, di ributtare subito la testa nella partita di Caserta, perché non possiamo, non vogliamo fare passare, perdere strada, perdere strada. Sì. Poi Siena farà un campionato a parte, ma questo lo sappiamo. Quanto al pubblico, ma la storia insegna, lo sappiamo bene, come il cuore di Milano lo conquisti con i grandi campioni, con i condottieri, con i capi popolo, D'Antoni, Meneghin, Nando Gentile, insomma possiamo stare a fare un elenco inutile perché sappiamo chi sono, e la conquisti con l'anima da battaglia, no? La risposta, come sottolineava l'ascoltatore, a questa Armani finora è molto tiepida, perché 2000 ieri sera per i campioni d'Europa del Panathinaikos, 1900 mi sembra domenica per il debutto in campionato al Palalido contro Ferrara, sono ancora numeri, io dico, inaccettabili per una piazza come Milano. Anch'io sono molto amareggiato, perché alla fine arriviamo da una finale scudetto, poi sì, abbiamo persa come l'abbiamo persa, però una finale scudetto che nessuno ci credeva. Abbiamo fatto delle buone cose in Eurolega, quindi la stagione scorsa credo che abbiamo costruito qualche cosa. E mi farebbe piacere vedere molto più gente al palazzo. Capisco che ieri sera probabilmente il traffico, il fatto che si gioca al forum, non aiuta i milanesi, perché non si sentono il forum come il proprio palazzetto, il proprio palazzo. Però quando si gioca in casa, come è capitato domenica scorsa con Ferrara, mi aspettavo molto di più. Mi farebbe veramente molto piacere rivedere quel calore che c'era contro, non parlo contro Siena in playoff, ma contro Biella oppure contro Teramo, perché la squadra alla fine ha bisogno del pubblico, ha bisogno del casino, ha bisogno di un incitamento, di un applauso, di un fischio in più. E questo Milano può darlo, quindi mi aspetto che piano piano un po' noi col gioco, con i risultati, ma anche un po' invece il pubblico possa tornare e avere il piacere di stare, di sostenere questa squadra. Di essere parte di qualcosa. Esatto. Francesco, Roma, buongiorno. Buon pomeriggio. Con tutto il rispetto per il coach Peterson, liquidare il successo di Roma di ieri sera con team al Vittoria, ha perso dei giocatori importanti, mi sembra un po', tra virgolette, un po' riduttivo, anche perché l'altro anno Roma andò a vincere a Vittoria, poi perse a un supplementare, se non ricordo male, la partita di ritorno. Quest'anno è stata tutta un'altra partita. Sì, Roma ha fatto una grande partita. A più 23 su una squadra che veniva da 3 vittorie consecutive in campionato a punteggio pieno, mi sembra una grande prestazione. E riallacciandomi al discorso delle squadre, del numero degli italiani, vi volevo ricordare questo esperimento che sta facendo la Lottomatica con degli ottimi americani, ma anche un bel gruppo di italiani che può dare un buon aiuto agli stranieri che c'era la Lottomatica. Sì, poi la Lottomatica ha un vantaggio, che è quella delle squadre di vertici, delle inseguitrici di Siena, ad aver cambiato di meno. È vero che ha perso un giocatore che faceva tutta la differenza del mondo l'anno scorso, come Sani Becirovic, però secondo me in questo avvio di stagione, anche se in campionato pure non è stata brillantissima, può sfruttare questo vantaggio, no? Quello di un gruppo che comunque si conosce bene. Marco, che ne pensi? Roma è vero che è partita non benissimo in campionato, però ieri ha dimostrato, ha fatto una grande prova di maturità, perché ha giocato dominando la partita dall'inizio alla fine. Il vantaggio è giustamente, come dici tu, di avere un nucleo di italiani che si conosce e un nucleo di americani che sono, un nucleo, penso a Jaber, penso ad Hudson, che sono rimasti e che conoscono la realtà e che sanno come si costruisce un gruppo. Secondo me Roma l'anno scorso aveva la loro forza, oltre che l'aspetto tecnico, era proprio il nucleo. Quindi sono stati bravi a tenere quel nucleo e a continuare e aver fiducia. In più hanno fatto degli innesti giusti, immagino che possano fare bene. Anche se Flavio, tu hai sentito l'altro giorno quando abbiamo avuto Minucci, nostro ospite, diceva Milano e Virtus Bologna, Roma la vedo un po' meno. Sì, lui ha detto così, io devo dire che la pensavo come lui, però ieri sera ho visto, io facevo un po' di zapping tra Milano e Roma e devo ammettere che Roma non mi è dispiaciuta per niente. Teniamo conto del fatto che era anche senza Minardo e senza Datome e ha giocato una partita di grande carattere e quindi credo che qui si veda già anche la mano di Gentile sotto questo aspetto. Cioè Roma sta diventando anche una squadra dura, anche in certi momenti, forse l'anno scorso non era proprio così, qualche volta ha avuto un rendimento esageratamente ondivago e questo l'ha pagato. Mi è parso, soprattutto dal punto di vista dell'approccio, che siano migliorati molto. Ecco, questa è l'impressione che ho avuto. Poi insomma alla lunga vedremo, però un po' ritratto quello che ho detto all'inizio dell'anno dopo aver visto questa partita, sinceramente. Dunque, io stavo dando un'occhiata intanto ai messaggi che sono tantissimi. Allora, saluti a Marco da Reggio Emilia, scrive Sebastiano. Cosa ne pensa Marco di Ferrara? Poi glielo domandiamo. Oppure, stasera vado a vedere Brescia-Verona di A Dilettanti, piazze storiche che stanno tornando come Trieste. Questo non può che fare bene. Sono d'accordo con Fabio che scrive questo messaggio. Daniele da Treviso, primo problema di Milano sono i 2000 del forum contro i campioni d'Europa. Quale futuro può avere l'Armani senza tifosi? Domanda giustamente del discorso che stavamo facendo ora questo ascoltatore. Stefania critica, avete costruito sì, ma avete disfatto come sempre, cambiando 1000 giocatori quest'estate, così non vinceremo mai, scrive Stefania. Palla spicchi. Cominciamo a parlare con gli ascoltatori. Come detto, Fabrizio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire 2-3 cosettine. La prima cosa era fare i complimenti a Mordente per quello che diceva sulla nazionale. Purtroppo nel calcio, ad esempio, non tutti la pensano come lui. A un certo punto tirano indietro la gambetta e la smettono. Noi dobbiamo essere, credo, orgogliosi di giocare in nazionale, anche perché credo che non succeda a tutti di poterci giocare. D'accordo con lei. Non esiste che uno si permetta di rinunciare alla nazionale, secondo me, se non ci sono gravi motivi. Seconda cosa, invece, tiratina d'orecchio per Mordente, perché la sconfitta di Varese mi è costata tanti di quegli sfottò che non me ricordavo da 10 anni. Quindi questa è un'altra cosa che purtroppo succede, o per fortuna, visto che sono sfottò comunque simpatici. L'altra cosa che volevo dire era per quanto riguarda il discorso del vivaio. Io, visto che adesso non so se anche nel basket maschile succede, nel femminile, che io seguo perché ho la figlia che gioca eccetera, ho visto che hanno fatto una specie di selezione, chiamiamola nazionale, addirittura under 15, under 16, che fa un campionato di B e con quella che lo tira su il Club Italia, come accade nella pallavolo. Secondo me è un'idea estremamente intelligente ed estremamente lungimirante questa, perché permette a giocatori giovani di giocare con gli adulti, con i grandi, ed è lì che impari. Non impari facendo 1000 partite giovani. C'è anche un progetto a livello proprio di ragazze più giovani, sì, che si chiama Azzurrina, che è un progetto molto interessante, dove vengono reclutate per alcuni raduni delle le ragazze più interessanti, ma su tutto il territorio nazionale. Quindi è un discorso molto. Se tu comunque a 16 anni, 17 anni hai la possibilità di giocare con i marpioni della C1 piuttosto che della B2, non so come si chiamano, non ricordo come si chiamano adesso questi campionati, però ci siamo capiti, beh, è lì che impari a giocare con. Quando il gioco si fa duro, no? Beh sì. Marco. È vero, è lì che prendi gli schiaffi, impari e ti rendi conto di quello che dove devi andare a migliorare. Anche perché fino a quando giochi con i tuoi parità, se sei soprattutto il più forte, continui ad essere il più forte. Se invece ti trovi davanti il vecchio che una volta ti dà una botta, una volta ti tocca il braccio quando tiri, lì impari, fai le ossa, no? E c'è un ascoltatore che ti saluta da Ragusa, dove grande. Tu e Pecile facevate, dice, una coppia di play Monelli, così vi definisce Giuseppe. Che non approfondirei. No, assolutamente. Paolo Forlì, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo allacciarmi all'ultimo discorso sentito, cioè del pallacanestro e dei giovani, quindi del futuro. Il problema sì. vero, io vengo dalla Romagna, che è stata per anni terra di pallacanestro, fra Forlì e Rimini, insomma, ne abbiamo masticata un po'. Adesso in questo momento siamo in una parabola nettamente discendente, ma il problema è tragico, è questo, che quando io avevo 16-17 anni e andavo a giocare al campetto, facevo la coda per poter entrare e giocare in un 3 contro 3 a metà campo, in un 5 contro 5 tutto campo. Oggi i campi da pallacanestro sono tutti vuoti. Quindi i giovani purtroppo non giocano più a questo sport, che è meraviglioso, perché è come se segnare un gol 30 secondi alla fine, no? Sì, sì. Ed è un gioco che atleticamente è completo, perché è paragonabile all'atletica. Spettacolarmente è bellissimo, si gioca al coperto, quindi avrebbe tutte le caratteristiche per riempire gli stadi e palazzetti, come succede in America, purtroppo. Assolutamente. Non va. E non è che non vada perché il nostro livello atletico o tecnico è basso, insomma vediamo che comunque qualche italiano nell'NBA sta comunque giocando, con alterne fortune però sta giocando. E guarda caso però l'ultimo in particolare ha preso piede in una squadra che è allenata da una vecchia conoscenza, che è D'Antoni, che quando è in Italia ha vinto come giocatore, ha vinto come allenatore, è andato all'estero ed è ritornato in Italia e ha vinto nuovamente come allenatore, e il segreto della sua squadra, la Benetton in quel momento, era che si divertivano a giocare a pallacanestro. Si divertivano, la squadra si sacrificava in difesa e in attacco perché i giocatori erano un gruppo sì, unico. Sì, no, certamente. Oggi, purtroppo tutto, cioè, l'individualità è soffocata dalla tecnica, dal tatticismo, e giochiamo con pressing. E questo è il logorio della vita sportiva moderna, ho l'impressione, che non vale soltanto per la pallacanestro. Ma mi interessava il discorso su quei campetti vuoti. Che prima bisognava fare la coda e adesso i campetti sono vuoti. Io volevo chiedere a Marco Mordente, che è cresciuto nel settore giovanile di Milano, no? Ricordo Mordente e Michelori, si diceva erano i due, e poi si sono confermati comunque le due stelle di quella squadra. Poi te ne sei andato in giro a giocare, imparare, vincere, a diventare grande, a diventare un grande giocatore. Poi sei tornato a Milano. In questo tuo giro d'Italia, in questa tua carriera, che cosa hai trovato, Marco, dal punto di vista della cura del settore giovanile, dal punto di vista della cura dei giovani, rispetto a quando tu eri in quella squadra con Michelori? Ne ho girato tante di realtà. Prima si parlava di Ragusa, lì c'era un settore giovanile, però era una realtà purtroppo non ben seguita. Fortunatamente invece ho visto realtà stupende come quella di Reggio Emilia, che è un settore giovanile fantastico, dove dopo gli anni storici in cui hanno tirato fuori, non so, Basile, c'è stato un momento in 2-3-4 anni di completo, sono un po' fermati e adesso sono tornati a investire. Se penso ai ragazzi che stanno tirando fuori, penso a Melli, penso, non so, anche Infante, comunque sta giocando in A2, cioè ci sono tanti. È un buon settore giovanile, come è un ottimo settore giovanile Treviso, che dopo anni comunque dove avevano tirato un po' indietro con gli investimenti, sì, sono tornati a investire, a vincere. Siena, che io ho fatto 4-5 mesi a Siena, ma anche lì è un settore giovanile molto molto curato. Milano, che sta ripartendo, che partì l'anno scorso col progetto Armani Junior, sì, Program. Quindi per fortuna si sta tornando a investire sul settore giovanile, come è successo fino a 7, 8, 10 anni fa. Quindi sì. Io credo si debba investire soprattutto sugli allenatori, perché tu hai avuto grandi allenatori quando eri piccolo. Sì, io ho avuto, esatto, la fortuna di essere allenato nel mio girare da tanti allenatori, quindi ho rubato a ogni grande allenatore, ho rubato qualcosa. E cerco, continuo a farlo, provo a farlo costantemente questo. Non è sempre così, però, nel senso che non sempre nei settori giovanili ci sono dei grandi allenatori, perché non tutti hanno le possibilità di poter prendere un ottimo allenatore per settore giovanile, certo, e investire dei soldi, e quindi si ritrova troppo spesso con ragazzi di 20-22 anni che smettono di giocare, ma che vengono buttati poi nel settore giovanile a crescere, a allenare i ragazzini. Certo, abbiamo detto molte volte, no? Ma io non so se riusciamo a fare ancora una domanda a Marco. Devi, sì, dirmelo tu. Guarda, no, io vorrei chiudere per la sua gioia con un canturino. Allora sì, andiamo. Canturino tutta la vita. Allora. Dionigi, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Apprezzo stato cartolino tutta la vita, sono decisamente di quell'idea lì. A parte la battuta, sono nato a Cantù, quindi mi scorre sangue cantorino. Non potevo che sta già aspettando il derby, non ci gira intorno, sta già aspettando il derby con Milano. Anch'io. Beh, non ci sono più i derby di una volta, diciamo, quelli veramente sentiti. Come no? Adesso che vinciamo non ci sono più i derby, abbiamo vinto l'anno scorso. No, il derby è sempre il derby, questo è fuori di dubbio. No, io intendevo il derby tra le nuove leve, non è sentito come era sentito e come lo sentiamo noi, ecco, una volta, i giovani di oggi. No, però volevo intervenire facendo due domande, se era possibile. Velocissimo, perché abbiamo 30 secondi, dica. Ecco, velocissimo, che una è sicuramente oggi si sta parlando tantissimo di Carlo Recalcati, del futuro della nazionale. Sì. Io credo che Marco Mordente potrebbe confermarmi oppure smentirmi che si vince in 10, in 12 con gli allenatori e tutto lo staff e si perde tutti quanti assieme. Allora fermiamoci qui, perché sennò non abbiamo tempo per la risposta, che siamo davvero in chiusura. Si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, però come abbiamo detto prima, questa è una storia d'amore finita. Confermiamo. Certo, infatti la prima cosa che ho detto, che non è colpa esclusivamente di Charlie Recalcati, delle ultime figuracce, diciamo, della nazionale. Però non vuol dire, i giocatori italiani sono quelli, ci sono il parco giocatori è quelli, non puoi cambiare tutto il parco giocatori, ma comunque devi cambiare l'aspetto, devi ripartire da qualche altra parte, quindi in questo momento si è scelto di ripartire dall'allenatore. Marco, devi tornare a trovarci, però adesso dobbiamo chiudere. Volentieri. Io ringrazio Marco Mordente, Flavio Suardi, ringrazio anche Chiara Cassinerio e Matteo Mantica per la presenza di Marco Mordente, così adesso ci siamo ingraziati per il prossimo invito. Esatto, okay. Giustissimo. Grazie a tutti, ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio dalle 5 alle 6, vi aspetto. Palla Spicchi.